ci divide. Con la mente ci sto, corre forte il desiderio di te. E anche quando mi risale la schiena, sento dentro un brivido che non so fermare mai, che mi libera dai guai, che mi prende quello che ho. Resta qui così fino a domani, anche se niente cambia in noi. Fammi entrare nei pensieri tuoi e ti prometto resterò. Dammi la mano e guarda verso il cielo, te lo regalerò. Aspetta sempre un'ora in più prima di dire no. Penso sempre a quella sera e a noi, così stretti l'uno all'altro per non farsi mai lasciare. Lo rifarei. E quel bacio di nascosto così, così dolce e leggero che nemmeno immaginavo succedesse lì. E non so fermarti mai, e mi liberi dai guai, e mi prendi quello che ho.